Eccoci online con la quindicesima puntata di Notizie Virali. Pratt Fumagalli che vi parla, Virginia Ricci al mio fianco. Virginia Ricci, ma tra che l'altro, ride con un entusiasmo, puntando il dito al cielo. Ma ah, sono contento vorrei, perché vorrei farvi visualizzare questo momento di entusiasmo. Vai, descrivilo. Non c'ho la musica di Quark. Aspetta, che provo a mettere qualcosa sotto, che gli artisti ci fanno divertire. Ma che la cultura, che tanto non si sente, quindi fai niente. Cioè noi non abbiamo, lo sentiamo. Ma avevi trovato il modo l'altra volta? Sì, aspetta. Questi artisti che ci fanno tanto divertire, ci fanno tanto appassionare. Qua. Ormai è andata. Vabbè, fa niente. Comunque, un'operazione fallimentare. Audio spettatori. Per descrivervi l'entusiasmo di Fred a inizio puntata, che è qua vicino a me, attaccato sul divano. Noi tra l'altro siamo uniti in maniera siamese da una cuffia, e quindi non ci possiamo separare, perché questo è il nostro unico microfono, il microfono delle cuffie di Fred. E lui con grande entusiasmo innanzitutto è partito con un countdown dal 4, così a caso. Vabbè. E poi, puntando un dito al cielo, ha annunciato che siamo arrivati alla 15ª puntata. Che è un bel traguardo, cavolo, cioè 2 mesi e mezzo di puntate. Comunque ogni settimana non è semplice. Ci sono coppie che sono finite per molto meno. E anche molto meno tempo, insomma. Comunque, detto questo, le coppie, ne parliamo dopo di coppie. Comunque, il mio entusiasmo era dato dal fatto che oggi abbiamo degli ospiti che mi piacciono molto. Da un lato abbiamo la scuola open source, mia, diciamo, terza casa, perché poi la seconda casa è invece è l'altro lato, che è Federico Nerotti. Seconda casa perché in questi giorni mi ha ospitato mentre finivamo del lavoro insieme, e poi mentre insomma ci facevamo anche un po' di coccole e compagnia. Comunque adesso non voglio entrare in discorsi sessuali. Esatto, discorsi sessuali. Comunque, per la scuola open source abbiamo Alessandro Tartaglia e Silvia Zotti, a cui adesso apro il microfono, così almeno nel caso volessero dire qualcosa possono farlo. Grazie per i saluti. Ciao. Fede, puoi salutare anche te, Federico Nerotti, From Che Fare, eccetera. Ciao a tutti, sono molto contento di essere qui. Grande, grazie. Tra l'altro ricordiamo che Federico Nerotti per un po' ha tenuto una rubrica proprio qua su Radio Virus che si chiama Stella Kamikaze, in cui Leggeva dei fantastici racconti di fantascienza. Verissimo. Che vi invitiamo ad ascoltare. Sull'archivio Radio Virus, www.radiovirus.org, cioè dove state ascoltando adesso la nostra radio, in realtà trovate anche in archivio le letture fantasmagoriche di Federico Nerotti. Ma detto questo, lasciamo un attimo Federico Nerotti ai postumi, o ai posteri, insomma, anche ai postumi. Mamma mia, oggi è veramente oggi pessimo. Sprizzante. Comunque, mamma mia. Basta, troppo entusiasmo. Ti ricordi quando, scusate, parentesi per chi, quando si diceva entusiasmo all'oratorio? Poi questa storia la racconteremo più tardi, nel backstage. Noi non andavamo all'oratorio. No, ma poi dopo infatti vi racconto, Ale. Era un altro tipo di oratorio. Poi dopo vi raccontiamo. Comunque, bravo che hai preso parola tu, perché volevamo proprio partire da voi. Come detto, adesso ritornando un attimo più seri, come detto nell'introduzione, Alessandro Tartaglia e Silvia Zotti da Scuola Open Source, tra l'altro responsabili dell'ala propaganda e comunicazione. Poi dopo correggimi ovviamente se dico cose che magari sono un po' inesatte, bla bla bla. Con loro e con Federico, come abbiamo fatto le scorse puntate con altri ospiti che adesso se elenco. Non iniziamo. Esatto, non iniziamo perché sennò non finiamo più. Vorremmo approfondire il discorso che insomma ci tiene a me e a Virginia svegli di notte, che è come cacchio facciamo a passare da la fase 1 delle proteste, diciamo, quindi tutta una cosa che arriva da rabbia, frustrazione, il sistema non funziona, scendo in piazza, mi incazzo, in piazza, a proposte concrete di cambiamento, a non lo so, un iter legislativo che ci porta effettivamente ad avere, per esempio, sparo a caso, lo Ius Soli, una scuola più inclusiva e accessibile, bla bla, eccetera. Anche che qua. non vogliamo fare, esatto. Partiamo chiedendo esatto, ad Alessandro e Silvia il loro percorso personale dall'attivismo alla scuola open source. Cioè, questa è una bella domanda. Cos'è che vi ha portato a voler mettere in atto qualcosa di pragmatico, programmatico e anche positivo e propositivo? Tra l'altro come la scuola open source, sottolineo, perché la scuola open source, secondo me, poi dopo lascio parola a loro, è un esempio virtuoso di quello che può essere effettivamente uno spirito di lotta, antagonismo, eccetera, eccetera, che si concretizza in qualcosa che effettivamente può essere vista come un'alternativa concreta alla scuola, al modo di fare didattica, al modo anche di trovarsi e pensare insieme delle soluzioni alternative a criticità del mondo che ci E circonda. poi è un esempio positivo di unione, rete, un esempio positivo di qualcosa Assolutamente. che avviene e noi abbiamo tanto bisogno di esempi E positivi. anzi, diteci anche a Bari, visto che siete di Bari, contestualizzate insomma dove siete, perché noi stiamo qua a Milano a pezzare, lì invece ci avete detto avete fatto il bagno, quindi lanciata questa patata bollente. Vai, parola a voi. Allora, vabbè, il mio percorso personale di avvicinamento alle cose che faccio adesso è stato piuttosto casuale, perché non avevo esperienze politiche fino a che a un certo punto avevo aperto da poco con degli amici uno studio di comunicazione. Ci chiedono di seguire un noto politico che era Nichi Vendola, e lì diciamo faccio un po' amicizia con questo mondo, nel senso che per la prima volta ho a che farci. Non vi nascondo che diciamo aver vissuto in Puglia quando Nichi Vendola era presidente della regione e diciamo, aver vissuto quello che stava succedendo ha condizionato la mia percezione. Fatto sta che questa cosa qui mi ha fatto conoscere tante persone e tante idee, tra queste ad esempio Guglielmo Minervini, che era il suo assessore alle politiche giovanili, che aveva immaginato quello che diciamo, è famoso come Bollenti Spiriti, il programma delle politiche giovanili della Regione Puglia. Da quel programma lì, per esempio, diciamo, siamo nati noi come studio, nel senso che una policy di quel programma fu diciamo, l'occasione con cui noi iniziamo. Vabbè, per farla breve, da cosa nasce cosa, nel senso le mie vicende personali sono un po' queste. E poi una cascata di eventi fino ad arrivare a un certo punto a fare degli esperimenti, ad aprire la scuola con altri, con molte altre persone, diciamo che ora non starò qui per l'elenco. Poi c'è Bibi, no? Che voleva dire qualcosa. Sì, io diciamo che sono arrivata qui a Bari dopo aver diciamo, sperimentato varie situazioni, un po' per gli anni dell'università, sono stata a Napoli, poi sono stata a Bologna, poi sono stata a Milano, in un percorso, come dire, un po' decrescente rispetto alla partecipazione. Cioè, diciamo che il mio percorso iniziale è stato un po' accidentato, perché sentivo sempre la difficoltà di far parte, sentirmi parte di un messaggio forte che mi coinvolgesse anche dal punto di vista un po' più pratico, al di là poi delle parole, degli slogan. E invece è arrivata qui a Bari, è entrata a far parte di questa grande famiglia di pirati. Ho potuto sperimentare quanto poi mettere in pratica quello in cui si crede è possibile e se lo si fa insieme è ancora più impattante e quindi l'esperienza della SOS per me è stata illuminante per tanti motivi, ma prima ancora proprio per diciamo, questa capacità di tradurre in azione la volontà di cambiamento. Che secondo me da pugliese per me è venuta fuori un po' come contraccolpo dopo diciamo, la fine dell'esperienza di quelle politiche lì, perché avevamo voglia di cose di quel tipo, ma non ce n'erano più, e quindi abbiamo provato a costruire noi qualcosa che incarnasse anche quel tipo di idee lì. E poi immagino che questo per altri sia significato in una fase un po' oscura. Diciamo, avere una specie di piccolo faro Sì, acceso là. io l'esperienza vendoliana, ad esempio, non l'avevo vissuta direttamente, ne avevo sempre sentito parlare. In un certo senso, i semi di quell'esperienza poi li vedo che sono germogliati e stanno continuando a crescere. Ecco, quindi è forte come impressione. Ci volete dare una definizione e magari per chi non lo sa, perché insomma, noi lo diamo per scontato, ma magari chi ci ascolta no, di che cos'è la scuola open source e magari anche cosa sta succedendo adesso nella scuola open source, insomma. Allora, al momento abbiamo da poco definito un nuovo statement, però non è ancora stato reso pubblico, nel senso che Un'anteprima. vi facciamo lo spoiler. Wow. Tra breve, diciamo, prenderemo a descrivere SOS come. Dove era? Era Rullo di tamburi. questo. Sì. La scuola open source, società cooperativa, ovvero ecosistema solidale di ricerca, no, è quello di sopra, ecosistema di solidarietà e ricerca sociale, culturale e tecnologica, spazio alla trasformazione dell'esistente. Interessante. Trasformazione dell'esistente, vogliamo approfondire, visto che poi tra l'altro è esattamente in linea con il tema che vogliamo trattare. Quindi come facciamo a, nella pratica, a prendere quello che è la realtà che abbiamo e di cui in gran parte siamo insoddisfatti e trasformarla con, secondo un modello più sostenibile, più eco per tutti, più accessibile a tutti. Esatto. E come fa la SOS, per esempio, fandolo nel concreto? Noi solitamente, diciamo, scomponiamo un problema in una serie di, diciamo, di possibili nodi, poi proviamo a capire come affrontare quei nodi, diciamo, in base alle risorse che abbiamo. Molto spesso adoperiamo, diciamo, la capacità di fare massa per forzare un po' le cose, poi spesso si tratta di facilitare l'uso improprio degli strumenti, anche delle policy, cioè cercare di usare dei bandi che magari erano stati concepiti per fare certe cose, forzando un po' per farne altre. Ad esempio, il format, quello XYZ, è nato così perché l'Unione Europea aveva fatto il Fondo Sociale Europeo, la Regione Puglia aveva fatto una policy che usava quei soldi. Nella policy era un po' vaga, c'erano gli elementi per fare una roba come quella che volevamo fare noi. Poi, per riuscire però a farla digerire all'Unione Europea, abbiamo un po' dovuto, diciamo, forzare la mano. Però tutto sommato credo che sia anche un tema di sapere cosa si vuole, riuscire come gruppo a mettere a fuoco degli obiettivi comuni, delle modalità comuni operative. Ale, scusa, ho una domanda, ma anche per Silvia, poi Fede, arriviamo dopo. Adesso hai detto una cosa interessante, secondo me, quindi cercare di forzare alcune policy, eccetera, eccetera, e bla bla bla, ma a me interessava quel forzare delle cose, perché ci rivedo molto una, diciamo, un'etica, uno spirito che voi seguite molto, che è quello hacker, no? Ci raccontate un po' questo, anche tra l'altro, diciamo, ci aggiungo l'open source, ci raccontate questi due valori, che sono uno presente nel nome e l'altro molto, molto forte all'interno dell'asset identitario della scuola. Sì, come hai detto tu, sottolineando il termine hacking, cioè significa che il nostro avatar è Jolly Roger, come dire, è strutturale, cioè è un modo di pensare a come approcciare la realtà, non è tanto occuparsi solo di codice o cose simili. Sì, è un atteggiamento, sì, è quello di come dire, alimentare il pensiero laterale, cercare soluzioni non ovvie, soluzioni che a prima vista non sono sotto il naso, però attraverso la ricerca, appunto, e con un approccio che io stessa, con una formazione da umanista, sto imparando un approccio, diciamo, più legato al mondo del design, che mi permette di spacchettare il problema, analizzarlo nel prima, nell'adesso, nel dopo, e cercare, appunto, soluzioni alternative, agili, cioè la famosa antifragilità. Poi sì, c'è anche da dire che tu hai parlato del simbolo, dell'avatar della pirateria, il Jolly Roger. Noi abbiamo fatto anche degli studi su quello, per capire come veniamo percepiti noi, come viene percepito il segno. E quello che emerge, molto interessante, è che l'avatar della pirateria, ovvero Jolly Roger, è un simbolo che riesce a connettere due segmenti politici che solitamente non sono collegati, ovvero tutta una sinistra, se volete anche un po' antagonista, comunque sicuramente non socialdemocratica e non rappresentata, e una parte invece di anarco liberisti barra libertari, che diciamo, anche loro in realtà per la situazione attuale poco rappresentati, e quindi molto spesso poi le persone che si avvicinano a noi hanno in modo prevalente questi due posizionamenti politici. Sì, ma non sono nemmeno così poi definiti. Cioè, sì, sì. Si tratta proprio di... Cioè, molto spesso le persone non sanno nemmeno bene, anche parlandoci così, te lo dico in prima persona, e mi metto io in prima persona in questo discorso. Cioè, è più veder tradurre proprio in discorsi comuni, cioè senza sentimenti anche comuni, no? Cioè, di dire... Ma le cose si possono fare anche senza calpestare gli altri, senza voler per forza arricchirsi in prima persona, cioè si può fare in maniera cooperativa, perché no? Cioè un qualcosa si può fare insieme, lo si può fare a vantaggio di tutti e non solo di qualcuno, e in questo senso anche perché open source, perché come diceva Bogdanov, la rivoluzione, se deve essere rivoluzione, deve essere prima di tutto culturale. Beh, state trattando anche, cioè state toccando dei pezzi di argomento che a noi interessano molto, ad esempio quello della cooperazione. Cioè, nelle nostre riflessioni siamo partiti anche dal pensare al primo passo della politica, anche la politica movimentista, che è l'utilizzo del linguaggio, cioè il modo in cui, non tanto l'utilizzo del linguaggio di per sé, ma come si comunica gli uni con gli altri, in modo da non sopraffarsi, in modo che non prevalgano soltanto determinate voci e altre vengano soffocate per via di, diciamo, declinazioni caratteriali particolari. Come strutturate voi la comunicazione interna alle esperienze della scuola open source, e quali sono le vostre riflessioni anche sulla metodologia con cui portate avanti le esperienze e i progetti che fate? Allora, provo a risponderti, anche se la domanda è difficile. Sì. Da un certo punto di vista io credo che ci sia una tensione che ha due estremità. Da un lato c'è quello che diceva Virginia, ovvero evitare che a causa di peculiarità caratteriali alcuni cioè vanno sugli altri, e dall'altro lato evitare che diciamo, la ricerca della correttezza formale del processo depotenzi lo slancio vitale del processo, che in un sistema a risorse limitate, tempo limitato e attenzione limitata potrebbe quasi essere peggio. Mm-hmm. Sì, quindi, perdersi in cavilli sostanzialmente. Sì. Quindi credo che, diciamo, almeno quello che noi proviamo a fare è un po', diciamo, la carezza e il macete, nel senso che da un lato cercare di essere carini e coccolosi con le persone con le quali collaboriamo, con le quali ci relazioniamo, ma dall'altra parte essere molto risoluti nel fatto di cercare di, diciamo, badare al sodo delle cose, cioè, e soprattutto quando si è in tanti poi diventa complicato altrimenti riuscire a parlare e andare avanti nei ragionamenti. Mm-hmm. Sì, poi sì, mi viene da aggiungere che poi c'è anche una sorta di auto regolamentazione, cioè nel senso che il famoso detto, anche un po' abusato, patti chiari, amicizia lunga, nel senso che noi abbiamo dei principi, sono anche esposti nel nostro manifesto, e diciamo da questo poi si parte per poter affermare che ci sono delle cose sulle quali non si può soprassedere e altre invece sulle quali si può anzi ragionare, portare avanti discussioni che possono essere più o meno accese. Però penso che la sensazione che si ha quando si ha a che fare con il nostro gruppo di lavoro sia sempre quella di essere alla pari, cioè che chiunque può dire la propria e lo può fare sentendosi accolto, ecco, non c'è mai una sensazione di... Sì, anche perché poi accogliamo un sacco, nel senso attiriamo un sacco di casi, sì, umani in giro, no? Sì, oddio, casi umani, persone che magari... Vabbè, d'altronde Fred... No, non mi riferivo particolarmente a Fred, ma però ma anche. Se pensate che la nostra identità è, diciamo, rappresentata da un carattere che si chiama freak grotesque, diciamo, e noi la casa dei freak, insomma, siamo un po'. Mm-hmm. Ci piace un po', come dire, coltivare l'idea che chi si sente un po' escluso anche da un certo modo di fare, da certi modi di fare, invece da noi può anche esprimersi in libertà, sempre tenendo presente che ci sono delle regole comuni che condividiamo e che ci ricordiamo spesso e volentieri, che fanno sì che, appunto, come dicevate voi, nessuno debba prevalere sull'altro, che ci debba essere un rispetto comune, e che su certe cose, se non siamo d'accordo perché vanno contro i principi della SOS, niente, si cascano. Certo. Ha una domanda Virginia, forse? Io ce ne ho una, tu ne hai vai, una. Vai, fai no, ne faccio una perché almeno mi collego anche... Aspetta, se tu ce l'hai con loro, perché io volevo lanciare la palla a Federico. Anche io volevo lanciare la palla anche a Federico, quindi... Ah, cazzo. Vai tu. No, falla tu, falla tu. Troppe palle qua. Vai, fai prima la tua domanda. Allora, esatto. Allora, lancio io perché è sempre la domanda che faccio per capire un po' cosa che ne fare. Pensano gli altri. Che fare? Quindi che fare? Non perdiamoci via. No, si è parlato adesso molto di hacking, si è parlato di cercare di strecciare, forzare anche un po' delle policy amministrative, insomma istituzionali, per provare a cambiare le cose. E la mia domanda è sempre, e qua mi rivolgo a Federico perché poi introduco una cosa che lui ha detto in questa quarantena, nell'eterno dibattito, almeno per me, fra agire all'interno del sistema per hackerarlo e invece cercare di essere più, almeno porsi esternamente. So che fisicamente non si può essere esterni, ecco, però dico porsi in anche spazi di antagonismo, di lotta. Voi, insomma, perché ho avuto anche una discussione poco fa su Facebook con un'amica dove faceva vedere, insomma, questa nuova campagna, adesso non mi ricordo di che brand, di moda, bla bla bla, che ha preso questa testimonial lesbica, grassa, adesso senza fare body shaming, ma è nera, e c'era questa ragazza qua che sui social si gasava, insomma, dalla cosa, perché effettivamente essere testimonial di un grosso brand comunque a livello professionale ti gasa, cioè ti può gasare assolutamente, però questa mia amica commentava dicendo sì, ok, cioè bene gasarsi, però cioè non ti sei accorta che ti hanno preso apposta, perché in realtà tu rappresenti, diciamo, tutti degli stereotipi che adesso stanno su cui adesso è facile marciare sopra per fare anche del washing. Quindi la mia domanda, che passo a Federico prima e poi dopo ovviamente se Ale e Silvia vogliono rispondere bene, è Federico, durante questo lockdown, proprio agli inizi, quindi proprio è una delle primissime cose che ho letto in tutto questo flusso teorico che c'è stato da tante persone, è stato il fatto di dobbiamo radicalizzarci, cioè è importante radicalizzarci adesso, perché se c'è un momento in cui possiamo spingere, poi scusate, parafraso un attimo, però il concetto era sul radicalizzarci, perché se c'è un momento in cui possiamo spingere è questo effettivamente. E quindi la mia domanda un po' confusa, adesso ci sono arrivato. Ovviamente. Avevo la stessa domanda, ma l'avrei fatta tipo in 30 secondi. Falla tu allora, no, comunque è, cioè, quanto dobbiamo radicalizzarci e quanto il radicalizzarsi all'interno comunque di un contesto non radicalizzato è poi effettivamente un palliativo oppure no, buttata lì. Tu vuoi completarla, Virgine? No, a me piaceva dell'articolo di Fede Neirotti, che ha scritto appunto per quello sulla cura, perché fare, sì. Il fatto che lui si chiedesse di soffermarsi sulla sofferenza, che è una cosa che in realtà, cioè, sul momento poi io e lui abbiamo discusso molto, perché io ho un piglio un po' più ottimista rispetto a lui e non vedevo tanto la necessità di parlare solo di sofferenza e non del post sofferenza. Però in realtà adesso capisco, cioè ora che siamo nella fase 3 in cui abbiamo iniziato a dimenticarci di tutto quanto, capisco il motivo per cui stava scrivendo quelle cose. E quindi la mia domanda all'interno della domanda di Fred è come facciamo a ritornare a percepire quella sofferenza e che tipo di prospettive sono nate anche dal tuo punto di vista, lavorando con Che Fare, lavorando in progetti che, che riguardano anche reti di associazioni e collettivi, eccetera, eccetera, che tipo di prospettive sono nate da questa quarantena e com'è dal tuo punto di vista la situazione? Dunque, cerco di risalire la china partendo dalla questione della radicalizzazione, perché spero di riuscire a tenere il filo per arrivare al punto finale. Dopo, diciamo, dopo la quarantena, ovvero in questo momento, forse il punto, la meta e la tappa a cui sono arrivato è quello di rendermi conto che il potersi radicalizzare è sempre un obbligo, un privilegio. O sei obbligato a farlo e non hai alcun tipo di alternativa, perché la tua individualità è talmente oppressa da non avere davvero nessun'altra via di scampo se non opporti in maniera completamente radicale al sistema che ti sta opprimendo in quel momento lì, oppure hai il privilegio di poterti radicalizzare. Perché magari hai delle istanze politiche, etiche di un certo tipo, hai uno spazio personale che può voler dire avere un'agiatezza economica, una libertà d'azione, via dicendo, e allora in quel caso lì tu puoi opporti a un sistema che magari non opprime direttamente te, ma opprime delle persone vicine a te. In questo gioco, tra appunto obbligo e privilegio della radicalizzazione, il punto è un po' cercare di capire in che modo beccare quelli che stanno in mezzo e soprattutto in che modo evitare che coloro che sono obbligati e coloro che invece hanno il privilegio di potersi radicalizzare perdano da un lato il senso e dall'altro lato la prospettiva della radicalizzazione, che è un gioco molto difficile. Difficile perché, un po' come è successo all'inizio della quarantena, come me la sono vissuta io, mi sono ritrovato in un momento in cui in un certo senso sentivo quasi una richiesta sistemica di sviluppare una prospettiva oltre la quarantena. Ma io quella prospettiva non riuscivo ad avercela, perché mi sono vissuto molto male la quarantena, e B, non volevo avercela. Non volevo avercela perché non mi sembrava di in quel momento lì avere gli strumenti, ma anche solo banalmente la consapevolezza necessaria a poter guardare oltre la punta del mio naso in quel momento. E quindi mi sono detto: diamine, se comincio adesso a cercare di capire in che modo mi posso reinventare il mio mondo e il mondo attorno a me per quando la quarantena finirà, temo che insomma non sarà tanto diverso dal mondo che ci ha portato in quarantena. E lo step successivo, dopo diciamo lo step del dolore iniziale, che è quello su cui mi sono particolarmente concentrato, nella misura in cui effettivamente cioè, è stato molto doloroso vedere tutta una serie di limiti abbattersi per la prima volta nella mia vita da persona completamente privilegiata. Lo step successivo è stato quello di ragionare sulle catene di valori che legano i vari pezzi della società. Catene, scusate, di valore, non di valori. Ovvero, perché due pezzi della società, magari c'è un pezzo più privilegiato, un pezzo meno privilegiato, un pezzo che opprime, un pezzo che viene oppresso, ma perché questi pezzi sono in relazione tra di loro? E tornando all'esempio dell'influencer di cui parlavate poco fa, in quel caso lì il movimento è ambivalente e complementare. In entrambi i casi c'è un'azione di estrazione di valore. Da un lato c'è il brand tal dei tali che presumibilmente cerca di estrarre del valore simbolico dall'individualità di questa persona e dice: io ti metto sul palcoscenico perché in questo momento metterti sul palcoscenico mi permette di assumere un'importanza o comunque una rilevanza nel contemporaneo che magari non avrei senza la tua presenza sul palcoscenico. Dall'altro lato abbiamo sperabilmente, perché invece è parecchio raro che capiti, un'estrazione di valore economico, ovvero sì, io ti cedo temporaneamente la mia individualità perché banalmente mi paghi. E essendo io un'individualità che normalmente non ha il privilegio di poter sedere su questo palcoscenico, a me quei soldi servono, punto e basta. Sul cercare di capire in che modo tutti questi pezzi si possano mettere insieme per cominciare a progettare quello che viene dopo. Per me i punti principali sono due di base. Il primo è proprio questo del trasferimento di risorse, che siano economiche o simboliche. Cioè, qualunque sia il campo d'azione in cui si va ad agire, che tu stia agendo dall'interno di un'istituzione, che tu invece magari ti stia ponendo completamente all'esterno, oppure che tu stia gestendo una situazione in cui qualcuno ti paga per metterti su un palcoscenico, ma non sai se è la cosa giusta. Secondo me, diciamo che la bussola che ci può aiutare a capire qual è la direzione in cui andare, quella di ragionare su quali tipi di risorse vengono trasferite in quel tipo di relazioni. E soprattutto cercare di capire in che modo, se noi ci abilitiamo all'estrazione o siamo noi a estrarre delle risorse da qualcuno, da qualcosa, in che modo poi andiamo ad utilizzarle. L'esempio più banale è un cazzo, l'esempio secondo me più critico, almeno per la mia personale bolla, è quello di dire quando è che gente che lavora nella comunicazione, nell'editoria, bla bla bla eccetera eccetera, deve accettare di fare un lavoro per un grosso brand pubblicitario che palesemente vuole magari pagare semplicemente delle competenze per potersi posizionare dal punto di vista del marketing su un determinato tipo di tema. Lì secondo me il ragionamento da fare è chiedersi in maniera molto semplice che cosa me ne faccio di quei soldi che sto tirando fuori da quel tipo di attività, o ancora in che modo le mie competenze possono effettivamente essere utili a liberare delle individualità che normalmente non sono liberate. E per riuscire, concludo, a mettere insieme questi pezzi in maniera effettivamente concreta, il pezzo finale, mi riattacco al ragionamento iniziale che avevo fatto in quarantena, è quello di imparare a stare zitti e ricominciare a studiare, di brutto, ma proprio veramente di brutto. Smettere io stesso in questo momento... non mi sento estremamente abilitato a poter dire le cose che sto dicendo, perché so che mi serve ancora studiare tantissimo su tutte le tematiche, le intersezioni di oppressione, i tipi di campi d'azione in cui io vorrei agire. Veramente non ne so abbastanza, e forse però c'è un'alternativa piuttosto che rimanere immobili. Forse l'alternativa è imparare, e questo è soprattutto un esercizio di autocritica per me molto difficile, perché sono estremamente saccente, imparare a scendere dal piedistallo e avere totale fiducia e soprattutto ammirazione nel fatto che qualcun altro, spesso e volentieri direttamente un'individualità che è effettivamente oppressa, possa avere tutte le risposte, o perlomeno molte risposte alle domande che ci stiamo facendo, di quanto noi ne abbiamo in questo momento. Quindi la classica cosa del cedere il microfono. Quindi mettere insieme un ragionamento su in che modo le risorse vengono trasferite e un ragionamento sul cercare di capire quante conoscenze ognuno di noi ha per poter fare questa analisi, e mettere insieme ciò che sappiamo e ciò che non sappiamo per cercare di progettare un fruibile che sia quanto liberante possibile. Per me in questo momento un po' la sintesi è questa. Mi sono mancato qualche pezzo e mi sono dilungato, scusate. Io mi allaccio a questo discorso e anche a quello di cui parlavamo prima con Silvia Alessandro, e mi allaccio anche a un discorso che abbiamo fatto con Capone un paio di settimane fa. Il discorso è sempre l'autoformazione, cioè creare degli spazi, dei luoghi alternativi a quelli che ci vengono proposti, crearceli noi, occuparli, nel senso di occupare degli stabili che occupare, non so, delle piazze, dei posti in cui di solito non vengono fatte attività di un certo tipo, e riterritorializzarli, con la nostra versione della cultura e della formazione. Da una parte c'è l'esperienza della scuola open source che unisce persone appartenenti a reti diverse ed è un collettore di esperienze, quindi questo discorso che stavi facendo tu adesso, Federico è un discorso che è molto coerente con il lavoro che fa la scuola open source. Dall'altra parte anche le esperienze di Che Fare eccetera hanno delle funzioni simili. Un'altra delle domande che ci poniamo spesso io e Fred è, dopo varie settimane che abbiamo parlato con persone di provenienze, di esperienze diverse, che hanno comunque tutte quante queste persone una base comune e delle richieste comune, delle lotte condivise, come fare a metterle a sistema? Quali sono gli strumenti che abbiamo noi per creare una rete positiva e che riesca magari a tradursi in una progettualità comune? La faccio a tutte voi tre questa domanda. Chi vuole cominciare? Bibi, vuoi agganciarti a quello che stava dicendo prima Fede? Sì, cioè, nel senso, assolutamente siamo d'accordo sul fatto che alimentare lo spirito critico è proprio una delle nostre missioni, cioè proprio abilitare le persone ad esercitare il senso critico, e quindi è quello che, diciamo, ci siamo sempre proposti come SOS di fare. Questo è un tema delicato perché secondo me, cioè, come dire, noi ne parliamo un po' da persone più o meno adulte, ma credo che tanto lavoro debba essere fatto in fase proprio di formazione primaria, cioè il problema poi è che secondo me ci si arriva un po' tardi, cioè ci si arriva dopo aver vissuto anni di formazione scolastica che non so, adesso non sono molto informata su come sta evolvendo la situazione, però almeno per come l'ho vissuta io sono stata fortunata fino a un certo punto, perché spero di aver avuto una buona formazione in questo senso, però mi sembra che tanti ragazzi più piccoli ancora vengano visti un po', no, come i famosi imbuti di cui si parlava, cioè contenitori in cui veramente inserire solo informazioni, e che invece, cioè, debbano seguire delle regole, che possano essere il meno rompipalle possibili, debbano essere bravi, educati, con un sacco di conoscenza, che poi non significa niente, cioè se tu poi non sai spenderla, sì, usarla, metterla a valore e metterla in condivisione, poi rimani solo e ti puoi scornare e diventi proprio anche più, cioè si alimenta la solitudine intellettuale. Io su questo volevo intervenire per dire, molto spesso, almeno io me ne rendo conto in prima persona, ma mi è capitato pure di parlarne con altri, soprattutto a SOS, apprendere da soli è faticoso, apprendere in compagnia è molto più piacevole, quindi diciamo la moltiplicazione di spazi di produzione culturale e controculturale che diciamo facilitino l'aggregarsi di persone attorno a domande a cui rispondere, idee da sviluppare, competenze da condividere o apprendere, no, credo che sia strategico nella più lunga prospettiva di ricostruire un minimo di, diciamo, rappresentanza da questa parte, perché altrimenti la, diciamo, rappresentanza che resta è un partito democratico che riesce a dire davanti alla tragedia di una donna che deve rinunciare a studi e lavoro per assistere i propri genitori non autosufficienti, che è un gesto bellissimo, che provano tanta empatia, diciamo. Questo mi sembra così una rappresentazione, diciamo, ridicola e caricaturale di quello, no, che è diventa. No, perché cioè, è una presa in giro per la parola empatia, cioè anche le parole vengono utilizzate in maniera sbagliata, cioè proprio il contenuto è completamente diverso dalla parola che invece viene utilizzata per trasmetterlo, quindi cioè, c'è molto da rifare forse. Assolutamente. Io aggiungerei un pezzo ulteriore che riguarda il perché dobbiamo metterci a sistema. E secondo me lì c'è, deve consumarsi un cambio di prospettiva che non è semplice, ma secondo me è necessario, ovvero renderci consapevoli del fatto che la resistenza che noi operiamo, per carità, ognuno a nostro modo, ma di fatto una resistenza, un qualcosa che opprime, ormai è quel qualcosa che opprime è talmente anacronistico che non siamo noi a resistere, in un certo senso. È quel qualcosa che opprime che in questo momento sta cercando di resistere ad un passare del tempo che, per quanto possiamo sforzarci di fare le cose male, tendenzialmente questo passare del tempo si divorerà questo mondo completamente anacronistico. Il nostro credo che il nostro compito nella messa a sistema sia quello di essere molto fermi e molto decisi, e in questo senso quindi radicalizzarci nel tutelare le persone che hanno meno possibilità di sopravvivere a questo passare del tempo, e cercare di aiutarle con ogni mezzo possibile a fare in modo che anche loro possano attendere questo passare del tempo che si divorerà questi sistemi oppressivi. E dopodiché aggiungo e concludo, metterei anche per un secondo in dubbio il fatto che ogni forma di resistenza debba essere sistematizzata, perché le oppressioni sono tantissime e si intersecano tra di loro in maniera spesso molto complessa da analizzare. Io ricordo molto bene una conferenza che avevo sentito alcuni anni fa a un festival che si chiama Sonic Acts e che si tiene ad Amsterdam, in cui avevo invitato un filosofo afroamericano a parlare di in che modo la dimensione della blackness venisse portata all'interno della cultura digitale, specialmente in un paese come gli Stati Uniti, dove la cultura digitale è molto legata all'imprenditoria. E lui aveva fatto insomma una lecture molto interessante su in che modo determinati modi di opprimere le persone attraverso il digitale assomigliano e anzi siano completamente ispirati all'oppressione subita dalle persone non bianche negli Stati Uniti. E poi alla fine, durante domande e risposta, una persona, un ingegnere informatico bianco, che si sentiva comprensibilmente molto sotto accusa dopo quel panel, gli fa: ma ascolta, ma quindi in che modo possiamo metterci tutti assieme per poter resistere a questa cosa, ammesso che io in questo momento sono completamente d'accordo con te? E lui ha detto una roba, secondo me, assolutamente corretta. Ha sottolineato il fatto che ci sono tantissimi modi diversi di fare resistenza, e non tutti possono imbarcarsi in quella grande nave che noi ci immaginiamo essere questa forma di sovversione del sistema attuale. Lui in particolare aveva descritto l'esempio di un esempio banale, nella misura in cui è completamente normalizzato, di una donna nera afroamericana che vive in una provincia degli Stati Uniti e che resiste ogni giorno sapendo come fare la de-escalation di violenza quando un poliziotto gli bussa a casa. Quella forma di conoscenza, quella competenza lì, è una forma di resistenza che è molto più cruciale e fondamentale di tantissime altre forme di resistenza, ma perché ti permette letteralmente di sopravvivere, ma allo stesso tempo ti divora così tanta energia psichica e anche proprio del quotidiano, che forse non ti lascia spazio per imbarcarti in forme di resistenza particolarmente sistematizzate. Beh, però quindi non è diverso, cioè secondo me è diverso pensare alla parcellizzazione delle forme di resistenza e invece alla messa in comune di una prospettiva di costruzione. Cioè, le forme di resistenza mi rendo conto che dipendono dalle esperienze singole e da come a cosa resistiamo ognuno di noi, nonostante comunque si parli molto e secondo me giustamente di intersezionalità, però la messa in comune sia degli strumenti che delle conoscenze, delle esperienze, eccetera, dovrebbe servire sempre a chi ha il privilegio di poterlo fare, per provare a costruire un'alternativa a questo mondo morente di cui stai parlando tu, Fede, a cui dobbiamo resistere. Secondo me, almeno per come la interpreto io, stai parlando di quali sono le priorità della resistenza nel momento in cui deve essere messa a sistema oltre la parcellizzazione. E secondo me, molto banalmente, non sono io in nessun modo a poter decidere queste priorità, e non credo che sia nessuno di noi in questa chiamata. Cioè, forse l'esercizio che dobbiamo fare è proprio quello di non credere che siamo noi a poter decidere questa lista di priorità, perché non siamo noi le individualità maggiormente a rischio in questo momento, perché ovviamente, specialmente in queste conversazioni, e sai che io sono un grande fan di questa narrazione, è facile tirar fuori la carta, per esempio, del cambiamento climatico, che è la grossa ombra che diciamo sovrasta qualunque tipo di discorso di questo genere. Allo stesso tempo, però, non basta giocare la carta dello sbatti più grosso per farla sedere in cima alla lista delle priorità, perché ci sono altre dimensioni di oppressione che sono in questo momento realmente fatali per le vite di persone che esistono oggi, no? Non esistono tra anche un annetto, cosa che... Sì, sono più immanenti. Quindi, appunto, per farla sintetica, forse l'esercizio che farei è proprio quello di dire: non sono io a poter decidere queste priorità, io il massimo che posso fare è aiutare a costruire la sala assembleare che permetterà a qualcun altro, che non sono io, di stabilire qual è la priorità, e io mi devo fidare, punto. Poi c'è tutto lo spazio per mettere in dubbio questa decisione, ma direi che di voce in capitolo ne abbiamo avuta fin troppa per tantissimo tempo, non siamo noi a dover decidere. Sentirei cosa ne pensano Silvia e Alessandro di questo. Io direi che aggiungere, cioè l'unica cosa che forse potrei aggiungere è che, astraendo sul ragionamento di Federico, che mi trova molto d'accordo, bisogna quindi provare ad assumere una prospettiva non individuale, non legata alla propria condizione di essere umano esistente qui adesso, ma di provare a concepire la lotta politica come un lavoro di lungo corso che attraversa l'esistenza di generazioni di individui. Questo non significa rinunciare a vedere i frutti del proprio lavoro e della propria lotta, ma significa appunto lavorare con generosità e con, diciamo, l'apertura che probabilmente poi potrebbe rivelarsi anche più rapido come metodo rispetto a, diciamo, a quelli fatti finora. E qual è il nostro ruolo? Costruire la sala assembleare, facilitare il trasferimento di queste risorse, aiutare. Abbiamo delle risorse che possono essere competenze o che possono essere economiche. Il nostro compito in questo momento è contribuire al trasferimento di queste risorse da noi, dalle nostre comunità, alle persone che in questo momento non hanno accesso a quel tipo di risorse. Po' come il giardino del terzo paesaggio di Giclemont. Cioè noi dobbiamo fare un lavoro, diciamo, di giardinaggio, sapendo che non siamo gli unici giardinieri e che magari tra un po' non saremo noi i giardinieri, ma che il progetto sostanzialmente è l'ecosistema che stiamo costruendo. Certo. In realtà siamo in fine, mi ha quasi finito il tempo. Avete tolto la parola a Fred? No. Molto rara come cosa. No, ragazzi, sono d'accordo con tutti e tra l'altro cioè, aggiungo solo, ma perché... In realtà ripeto cose che ho sentito che mi sembravano intelligenti della scorsa chiamata, dove Iaconesi proprio alla fine, a fine intervista, metteva molto l'accento sul tempo, cioè sul darci anche del tempo per metterci a sistema, anche darci del tempo e diciamo abbandonare quella che è un pattern che io vedo spesso ripetersi anche in realtà di movimento, dell'avere tutto subito ma iniziare a mettere in prospettiva in un'ottica di medio lungo termine, ma come dicevo adesso alle Tartaglia proprio quasi di vita, il portare avanti delle istanze, il cercare di appunto apparecchiare, di curare, ecco, curare è una bella parola, questo giardino per chi verrà dopo di noi, e il fatto stesso di curarlo, anche se non, cioè è il risultato, cioè nel senso, adesso prima diceva dobbiamo vedere, chi se ne frega di vedere i risultati, certo, perché il fatto stesso di fare questa cosa qua è implicitamente il risultato, secondo me, quindi io adesso sto ragionando molto su questa accezione del tempo, ne ho ragionato tanto sotto la doccia, che è dove ragiono di solito, perché è uno dei pochi posti Fred, sai, per capire bene la differenza, sì. Quale potrebbe essere una buona metafora, cioè invece di immaginare come facciamo spesso la storia degli esseri umani o dell'umanità, provare a iniziare a immaginare una storia delle idee per potersi rendere conto di come determinate idee magari compaiono in più luoghi contemporaneamente, ma poi ci mettono secoli, decine di secoli a diventare egemoni, e di come questi processi attraversino la vita di decine di generazioni, certo, di esseri umani. Anche del perché, quali sono, esatto, i bimbi che portano a far sì che un sistema di idee prevalga sull'altro. Assolutamente. Ragazzi, noi siamo in chiusura, anche perché tra poco Virginia ha una call, io pure. E noi andiamo a e SOS. Noi pure. Voi andate a SOS, Federico non lo so dove andrà, magari farsi un giro con la sua nuova bici rossa fiammante. Beh, wow. Ma perché dobbiamo farsi i cazzi suoi? Eh no, ma Fede, perché so che ci tiene la sua libero. Bici, quindi ieri l'ho guidata. Complimenti per la bici. È una proprio bella bici, è una bella bici. Ottima questa. Esatto, esatto. Quindi a tutti i topini, ladri di bici, connessi, mi raccomando, esatto. Federico Nero. Federico Nero, sapete. Bici rossa fiammante nuova. Usata però come nuova. Però parentesi, ho anche una copia della sua chiave, delle sue chiavi del lucchetto, quindi esatto. se voleste mai vi semplifico la vita, contattatemi. Quindi la tua ex bici. Esatto, ormai l'ho già trasferita. Salutiamo la bici di Federico Nerotti e salutiamo tutti voi, speriamo di vederci quest'estate, di incrociarci. Assolutamente, noi, guarda. Comunque a settembre veniamo a fare XYZ vicino a casa vostra. Ma si può spoilerare? Io so tutto di voi, tra l'altro. Vabbè, ma ci sono io. Comunque non sappiamo ancora i giorni precisi, ma dovrebbe essere, diciamo, dalla metà di settembre in avanti. Mega spoiler. Altro mega spoiler. Grazie mille per essere stati con noi. Ciao. Salutate tutta la scuola open source. Fede saluta tutto tutte le biciclette di Milano. Ci mettiamo questo pezzo di chiusura che non è la nostra solita sigla, ma comunque mixiamo lo stesso con A Lavorare, quindi restate con noi per questa sigla. E poi dopo di noi incredibilmente non ci saranno i Raga di Napoli, a cui per una volta che cediamo la radio puntualmente Non ci sono, ma noi l'abbiamo fatto comunque. Noi li annunciamo comunque. Noi li annunciamo comunque. Dopo di noi state connessi con i raga di Napoli. Grazie a tutti davvero. Un mega grazie abbraccio, ragazzi. Grazie a voi. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Ciao. Perché? Cosa faccio? Rimango qua. La cultura, non dimentichiamo neppure questo settore, non abbiamo un occhio di attenzione per i nostri artisti che ci fanno tanto divertire, ci fanno tanto appassionare. Ci fanno tanto divertire, ci fanno tanto appassionare. A lavorare.